bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro, Il Falsario, la lotta quotidiana contro Satana. Siamo arrivati al primo capitolo. Credo che ormai abbiate compreso tutti qual è il significato di questo libro, che non è un libro sul demonio, ma è un libro contro il demonio, e in particolare non riguarda quel settore, diciamo così, così che oggi va così tanto di moda in fondo, dove che ha prodotto film come L'Esorcista e che interessa anche i mass media, che sul quale sono stati scritti anche diversi libri, che ha rilanciato anche nella Chiesa questa figura dell'esorcista, quindi un settore che indubbiamente non intendo affatto dimenticare, anzi ne tratterò in qualche capitolo del mio libro. Ma capite bene, cari amici, che il settore dove il demonio disturba è un settore, diciamo così, non so come dire, non è poi così pericoloso, insomma, ecco. Il demonio di dispetti ne fa tantissimi, cioè quando il demonio è arrabbiato e fa i dispetti o comunque sfoga il suo odio, non è pericoloso. Non è pericoloso perché è arrabbiato perché non riesce a fare del male, insomma, è arrabbiato perché non riesce a fare quel male che lui intende fare, cioè perché non riesce a condurti al peccato. Quando il demonio è arrabbiato perché non riesce a distoglierti da Dio, in qualche modo cerca di sfogare questa sua rabbia, ma capite bene che in questi casi uno dice, sono tranquillo, perché anche io lo dico sempre a me stesso. Se il demonio è arrabbiato io sono tranquillo. Quindi è un settore che è questo qui, diciamo così, che oggi polarizza tanto l'attenzione. È un settore dove in realtà non bisogna essere particolarmente preoccupati. Invece noi ci occupiamo di un settore ben diverso, che è il settore dove il diavolo opera per ingannarci. Attenzione, è un conto dove il diavolo opera per disturbarci, è un conto dove il diavolo opera per ingannarci, e questo è un ambito estremamente pericoloso, perché attraverso l'opera di inganno il demonio riesce a staccarci da Dio, riesce a guidarci sulla via del male, riesce a farci diventare schiavi del suo regno di morte. In sostanza, questo libro è un commento a una parola di Eva. Quando Dio disse alla donna, che hai fatto? La donna rispose, il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Ecco, questo libro, Il Falsario, nasce quindi da questa situazione concreta, cioè il serpente che inganna. Tu che ti fai ingannare e mangi il cibo avvelenato che il serpente ti porge. Allora, questo libro ha come scopo di svelare le astuzie con le quali il serpente cerca di ingannarci, per non cadere nelle sue trappole, quindi per non perdere le nostre anime. La vera posta in gioco di tutta la catechesi che noi faremo oggi e nelle prossime volte è la posta in gioco più importante, la posta in gioco assoluta, e cioè la salvezza eterna della nostra anima, perché noi abbiamo visto, cari amici, quando abbiamo detto che nel capitolo primo abbiamo detto che la vita è una battaglia, abbiamo detto, cari amici, che la battaglia della vita vede schierati l'un di fronte all'altro Cristo e il demonio. Naturalmente Cristo è il vincitore, il demonio è il vinto, però noi possiamo decidere l'esito di questa battaglia con il nostro consenso. E naturalmente per avere il nostro consenso Satana, siccome noi siamo orientati al bene, per avere il nostro consenso Satana deve per forza adattarsi alla struttura dell'essere umano. L'essere umano cerca la felicità, cerca il bene, perché così è stato fatto da Dio, e allora ecco che Satana è costretto a ingannarlo presentando il falso bene e le false felicità. Tutto ciò che Satana presenta è sempre un bene falso, presenta la falsa pace, la falsa pietà, il falso bene, le false verità, i falsi maestri spirituali, i falsi amici, i falsi apostolati, le false opere di bene. Presenta tutto falso. Perché? Perché sa che presentando queste cose sa che riesce a far breccia nel cuore dell'uomo, perché gli uomini prima di diventare cattivi devono fare di strada. L'uomo è, nonostante la ferita del peccato originale, l'uomo è sensibile al bene, l'uomo cerca la felicità. Allora ecco che Satana è necessariamente colui che deve falsificare le cose presentando il male sotto forma di bene. Dunque è il grande falsario, è colui che inganna, è l'ingannatore. E qui, cari amici, è qui la vera battaglia contro il demonio che va fatta. Questo è il cuore dell'insegnamento biblico. Come già vi ho detto, il serpente mi ha ingannata, io ne ho mangiato. E questa medesima frase ha commentato Gesù, quando ha detto: voi avete per padre il demonio, che è padre della menzogna e omicida fin dall'inizio. E naturalmente questo affrontamento, questa lotta contro il demonio avviene nel contesto della vita quotidiana, cioè ogni giorno. Perché? Perché ogni giorno noi siamo di fronte, cari amici, alla grande opzione fra il bene e il male. E l'abilità del demonio consiste nel prospettarci la via del male come se fosse per noi la via della felicità. E cercherà di mostrarci la via del bene come una via impossibile, una via superata, una via che pochi percorrono. E la sua abilità quotidiana sarà proprio qui: farti fare ogni giorno un passo sulla via del male, sulla via della schiavitù, sulla via della lontananza da Dio, fino a portarti a una vita dove Dio non c'è più, dove tu ti illudi che non ci sia più neanche Satana, ma in realtà lui c'è. Perché quelli che dicono non c'è Dio, non c'è demonio, non c'è al di là, non c'è niente, siamo solo noi, quelli sono quelli che sono al guinzaglio. Sono al guinzaglio più di tutti gli altri. Sono pochissimi, pochissimi, cari amici, coloro che scelgono Satana volutamente. La maggioranza sono quelli che scelgono la via del male, mentre Satana si nasconde astutamente, e lo vedranno invece soltanto alla fine, quando avendoli stretti con le sue catene dirà loro: siete miei ormai. Allora noi vogliamo per tempo mostrare questi inganni, mostrare per tempo che una vita atea, una vita materialistica, una vita sulla via del male, una vita sulla via del peccato, una vita senza Dio, non è una vita laica, non è una vita libera, è una vita in cui tu sei già schiavo del demonio, è una vita nella quale tu sei stato ingannato. Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Adesso ritorniamo al nostro capitolo primo, intitolato La vita è una lotta. Abbiamo già fatto tre paragrafi. Il primo paragrafo: il regno dei cieli si conquista combattendo. Abbiamo visto la grande battaglia di Cristo contro il demonio, che è il cuore stesso del Vangelo. Cioè la vittoria di Cristo sul demonio è il cuore stesso del Vangelo. Abbiamo visto la posta in palio, che è la più alta possibile, e cioè la salvezza eterna della nostra anima. E abbiamo visto, cari amici, quali sono i nemici che dobbiamo affrontare. Abbiamo indicato, secondo la tradizione cattolica, tre nemici, e cioè la carne, la nostra carne, cioè la nostra natura umana inclina al male dopo il peccato originale, è il più grande nemico che abbiamo, questo. Poi l'altro nemico è il mondo, che ci sollecita al male. Certamente nel mondo c'è anche tanto bene, ma non c'è dubbio che le sollecitazioni al male non sono certamente di meno. E poi abbiamo visto come dietro la nostra carne e dietro il mondo si nasconde il grande regista, il demonio. Qual è il più pericoloso di questi tre nemici? Molti si saranno forse meravigliati dalla mia affermazione che ho fatto nella precedente catechesi, quando ho detto che di questi tre, cioè la carne, la nostra carne, la nostra concupiscenza, la nostra tendenza al male, il mondo e il maligno, io ho detto che il più pericoloso è la nostra carne. Molti di voi saranno rimasti meravigliati, perché avranno detto: ma non è forse il demonio il nemico più perverso, più pericoloso? Sì e no. Sì perché è talmente grande la malizia del demonio, talmente astuto, talmente feroce. Cioè la sua astuzia, la sua sottigliezza, la sua identificazione col male assoluto, perché il demonio è il male assoluto, non dimentichiamolo, è al di là di ogni nostra concezione. Guardate, vi faccio una piccola confidenza. In questo libro io non sono andato a fondo, in alcuni punti mi sono arrestato. Mi sono arrestato volutamente, come quando si scende giù in un abisso, a un certo momento uno si accorge che questo abisso è senza fondo e si spaventa e torna su. Così, guardando giù nell'abisso del male, a un certo momento io mi sono spaventato, ma mi sono spaventato dal Vangelo, dalle parole evangeliche. Dalle parole evangeliche sul demonio, dalle immagini evangeliche. Quando viene chiamato il drago feroce, quando viene chiamato il leone ruggente, quando viene chiamato il padre della menzogna, voi avete per padre Satana, quando viene chiamato omicida, quando si dice che Satana entrò in Giuda, ci sono delle frasi che se uno volesse esplorare ti vengono i capelli bianchi, sono gli abissi del male, quegli abissi che soltanto dei grandi santi, parlo di un curato d'Ars, o di un padre Pio, o altri mistici, hanno potuto esplorare per grazia di Dio, perché loro erano delle vittime che dovevano essere arse sull'altare del sacrificio per la salvezza eterna delle anime. Quindi a queste persone particolari, a questi grandi, vorrei aggiungere magari altre persone come Veronica Giuliani, come Sor Josefa Menendez, ce ne sono tantissime di anime a cui è stato svelato quello che Paolo chiama il mistero di iniquità. È un mistero talmente abissale che uno si spaventa, sapete? Si spaventa, ma guardate che se noi prendessimo sul serio le frasi del Vangelo sul demonio, ci sarebbe da spaventarsi. Specialmente quelle di Gesù. Gesù ha delle espressioni terribili. Anche la stessa espressione maledetto. Via da me maledetti nel fuoco eterno. Sono espressioni spaventose, cari amici, spaventose, che non si possono capire senza una particolare luce di Dio, e Dio le fa comprendere soltanto a coloro dei quali ha bisogno l'offerta della vita, come vi ho detto, Veronica Giuliani, Santa Gemma Galgani, Padre Pio, il Santo Curato d'Ars, non sono queste anime particolari. La vita di Padre Pio e la vita del Santo Curato d'Ars, due uomini del confessionale, due uomini nella lotta contro il maligno, ad essi Dio ha mostrato la vastità del male, ha mostrato per quanto sia possibile alla comprensione umana l'abisso del male e perché dovevano combatterlo. D'altra parte, cari amici, se noi pensiamo soltanto alla croce di Cristo, la croce di Cristo esprime tutto l'odio del demonio contro Dio e tutta la sua ferocia, ma anche il prezzo che sono costate alle anime. Cioè pensate, cari amici, a quale schiavitù noi eravamo soggetti se per liberare le nostre anime ci è voluto il sangue di Cristo, il sangue di Dio fatto uomo. Allora, vi dico, vi ho detto, cari amici, che non c'è dubbio che fra questi tre il nemico più tremendo sia il demonio, su cui ci sono dei fraintendimenti colossali, ma forse è un bene che sia anche così, perché guai a noi se conoscessimo il mistero del male ci spaventeremmo. Il male è un mistero tremendo, cari amici, perché è il rifiuto di Dio. C'è una creatura che rifiuta. Il male è un parricidio, cioè l'uccisione del padre che è Dio. Cioè il male è qualcosa di terribile, di terribile. Il male nella sua consapevolezza, nella sua lucidità, è qualcosa di terribile. Ecco perché l'inferno è qualcosa di terribile. Tutte queste affermazioni stupide, no? L'inferno è vuoto, Satana si converte. Le avete mai trovate voi queste affermazioni stupide sulla bocca di un padre Pio, un santo curato d'Arso, di questi grandi santi? No, di certo, perché loro conoscevano il mistero del male. Queste affermazioni stupide le fa qualche teologo o qualche prete o qualche altro che non sono superficiali, non conoscono il mistero del male, non conoscono neanche il mistero della redenzione. Non sanno che cosa voglia dire che un'anima è costata il sudore di sangue di Cristo, la flagellazione di Cristo, le spine di Cristo, i chiodi di Cristo, non lo sanno. Non sanno cosa significa, cosa vuol dire acquistare un'anima, no? Per cui vengono fuori queste affermazioni stupide, no? E queste affermazioni sul povero diavolo, sull'inferno vuoto, su Satana che si converte, sono ad una stupidità che dovrebbe essere commentata. Ecco, vorrei, Padre Pio, mi piacerebbe tanto fosse Padre Pio vivo oggi per commentare queste cose, cioè che l'inferno è vuoto. Ecco, ci è voluta la Madonna a Fatima per dirci che, voi sapete che il Santo Padre ha detto nella sua catechesi, sulla sua catechesi con l'inferno, che noi non possiamo sapere se e quanti uomini ci siano all'inferno, a meno che Dio non ce lo riveli. Ma Dio ce l'ha rivelato a Fatima, attraverso Maria ci ha detto che oggi molte anime vanno all'inferno perché ce ne sono che prega per loro. Cioè, di fronte a questa stupidità ci è voluto un intervento di Maria, la quale addirittura a Međugorje ha portato nell'aldilà due ragazzi perché vedessero con i loro occhi il mistero del male nella sua realtà. È spaventoso, cari amici, è spaventoso. Perché è spaventoso? Perché dove nasce lo spavento abissale del mistero del male? Dal fatto che una creatura creata con un infinito amore da Dio, e alla quale Dio dona la sua divinità e la eleva alla partecipazione della vita divina, questa creatura rifiuta. Non vuole Dio, preferisce il demonio a Dio. Questo è l'abisso del male che dovremmo perlomeno un po' tutti capire per grazia, per renderci conto di che terribile realtà sia il demonio. Però, attenzione, nonostante questo, non è lui il nemico principale, ma siamo noi. Cioè, fra questi tre nemici, la carne, il mondo e il demonio, il più pericoloso è la carne. Per quale motivo? Perché il demonio, cari amici, non può farci nulla se noi non vogliamo. Lui può farci del male solo col nostro consenso. E siccome può farci del male solo con il nostro consenso, cerca di ingannarci. Quindi siamo noi pericolosi, noi che stupidamente ci avviciniamo a questa bestia feroce, credendo che sia invece il nostro benefattore, e quindi ci esponiamo alla sua ferocia. Quindi di questi tre nemici, cari amici, la carne, il mondo e il demonio, il più pericoloso è la carne, cioè siamo noi nella nostra stupidità, nella nostra superficialità. Ebbene, cari amici, dunque abbiamo visto che la vita è un combattimento spirituale, abbiamo visto i nemici di questo combattimento spirituale, vediamo l'esito finale di questo combattimento spirituale, siamo a pagina 12 del nostro libro, e scrivo: il combattimento spirituale dura fino all'ultimo istante della vita. Il vigilate e pregatevi, Gesù riguarda tutti, anche i santi. E Gesù, controlla Matteo 10,22, dice soltanto chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvo. Ti serve a poco aver vinto le battaglie iniziali, se poi ti sei prima intiepidito e infine arreso. Paolo rimprovera gli insensati Galati perché dopo aver incominciato con lo spirito sono finiti schiavi della carne. Non dice forse Gesù, con una delle sue tipiche espressioni folgoranti, che molti sono i chiamati ma pochi gli eletti? Quindi, cari amici, questo combattimento spirituale, attenzione, che non ammette ferie, non ammette parentesi, fino all'ultimo istante. Certamente ci saranno momenti in cui il demonio ci assale di più, momenti di particolare ferocia, ai quali Dio alternerà momenti di pace e di serenità, in cui ci farà sentire la sua tenerezza, la sua vigilanza, la sua protezione. Però, cari amici, da parte nostra la vigilanza deve durare fino all'ultimo istante della nostra vita. Anzi, a mio parere, ed è per questo che ho dedicato il penultimo capitolo del nostro libro Il Falsario a questo tema, a mio parere si è amata perdendo oggi, in questi ultimi decenni, si è andato perdendo nella Chiesa la percezione che c'è sempre stata della battaglia finale che c'è alla vita, al termine della vita di ogni persona. Guardate che il termine agonia deriva da agone, agonia, agonistico, Cioè, è l'ultima battaglia, l'agonia è l'ultima battaglia, cari amici. Questo stiamo perdendo nella Chiesa. Cioè, quando noi ci avviciniamo alla morte, il demonio sferra lì la sua battaglia più pericolosa. In che modo? In tutti i modi, intanto perché, per quanto riguarda le anime che lui già possiede, perché sono in peccato mortale, farà di tutto per portare fino all'ultimo istante impenitenti. Farà di tutto per portare fino all'ultimo istante impenitenti. Ma anche per le anime che hanno, tuttavia, nel corso della vita fatto un cammino sulla via del bene, cercherà in qualche modo di insinuare dubbi, creare dei complessi di colpa, di creare dei ripensamenti, di creare degli scoraggiamenti, in modo tale da farle disperare, da farle mancare di fiducia, perché lui è uno, il demonio è infaticabile, e pur di avere un'anima in più nel suo regno non desiste fino all'ultimo istante. Per cui quello che vorrei sottolineare, cari amici, è che in questa battaglia dura tutta la vita, scade all'ultimo istante, fino alla fine dobbiamo essere perseveranti. Non ci giova, cari amici, aver vinto le battaglie iniziali se poi perdiamo quella finale. Va recuperata nella Chiesa il concetto di battaglia finale che la Chiesa ha sempre sostenuto con i sacramenti della confessione, della comunione, della confessione, della comunione e anche della estrema unzione, le preghiere per i moribondi, l'affidamento a San Giuseppe per una buona morte, le preghiere della tradizione cristiana riguardanti appunto gli ultimi momenti del trapasso, la preghiera della famiglia, la protezione della famiglia intorno al malato. Tutto questo si è perduto, ma questo è stato un gravissimo danno, perché questo era un aiuto che si dava al moribondo durante l'ultima battaglia. E vi ho già accennato, per esempio, alla morte di Santa Bernabette Soubirous, la quale negli ultimi momenti, gli ultimi istanti della sua vita era assalita dal demonio e la si sentì più volte dire: va via Satana. Il suo confessore ci dice, ci testimonia, che il demonio cercò di spaventarla. Una sua consorella che ricevette una confidenza ci riferisce che il demonio la spaventava insinuandole che non aveva corrisposto abbastanza alle grazie che aveva ricevuto. Vedete com'è astuto, com'è sottile, com'è feroce. E Bernadette stessa chiedeva aiuto alla consorella perché pregasse per lei. Le sue ultime parole furono: va via Satana. Poi disse: Santa Maria, Madre di Dio, prega per me, povera peccatrice. Vedete che anche nell'Ave Maria, cari amici, c'è questa espressione: prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Perché nell'ora della nostra morte? Perché là dove c'è il demonio c'è anche la Madonna. Là dove il demonio sfera l'ultima battaglia, lei è presente. E quindi noi dobbiamo capire che quella è una battaglia, c'è Maria e c'è il demonio intorno a un moribondo. Noi dobbiamo essere presenti a proteggere con la preghiera, con l'amore, con la fede nostra il moribondo per l'ultima battaglia. Perché? Perché perseveri fino alla fine, perché soltanto chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvo. E poi qui continuo, cari amici, così terminiamo questo capitoletto. Primo, è incredibile come l'uomo sia disposto a combattere le più pericolose battaglie e a sobbarcarsi le più grandi fatiche pur di conseguire una manciata di terra che tuttavia dovrà lasciare assai presto, mentre non si cura affatto dell'unica guerra che bisogna fare e della sola battaglia che bisogna vincere ad ogni costo. Satana riesce a ingannare l'uomo fino a portarlo sull'orlo della tomba con l'illusione che la morte è ancora lontana, oppure che con la morte finisce tutto. Se uno non si converte prima, cari amici, solo per una grande grazia riesce a staccarsi alla fine dall'illusione satanica che ti dice che con la morte finisce tutto, che magari vivrai ancora a lungo. Satana riesce a ingannare l'uomo fino a portarlo sull'orlo della tomba con l'illusione che la morte è ancora lontana, oppure che con la morte finisce tutto. Che dire di tutti coloro che muoiono senza fede, senza preghiera, senza pentimento e senza speranza? E noi ci diciamo stupidamente: non ha sofferto. Ma come non ha sofferto? Magari avesse sofferto. Se si muore senza fede, senza preghiera, senza pentimento, cari amici, quale sarà la nostra sorte eterna? Ma ci abbiamo ben pensato? È questo l'amore che noi abbiamo per i nostri cari? Nessun credente si illuda. Al termine della vita, nel momento stesso in cui cessa il combattimento spirituale, che è nell'agonia il suo momento più solenne, ogni anima ha già deciso definitivamente del suo destino eterno. Cioè l'ultimo istante è quello che conta per l'eternità. Infatti, o entrerà con Dio nel regno della luce, o se ne andrà col maledetto nel regno delle tenebre. Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 1022. Ogni uomo, fin dal momento della sua morte, riceve nella sua anima immortale la retribuzione eterna,